Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Coppia gay e gatti. Quella che segue è una parte della storia privata di Armando e Peppino, i protagonisti di Vita Gay negli anni 40-50. E beh, e che devo dire? Mi vergogno di parlare di queste cose, sono cose nostre, sono cose private, e poi cioè, perché te ne dovrei parlare? Ma, cioè, ma, così tu le scrivi e qualcuno le legge, ma e Peppino che dice? Gliel'hai chiesto a Peppino? Tanto. Lui dice sempre di sì, non ha mai detto no a nessuno, lui è un bravo uomo. No, no, no, questo è proprio, lo posso dire, è proprio un uomo bravo, perché certe volte esagera un pochetto. Boh, in mezzo al palazzo lo pigliano pure per pazzo. Ma quello pazzo non è, no, no, no. E cominciate tutti con la storia dei gatti. Sì, sì, sì, dei gatti, sì. E ne tenevamo uno di gatto, e uno si poteva pure tenere. Poi si è presentato con un altro, uno piccolo, dice che quello era abbandonato, sa, non c'aveva più la mamma, se mi avrebbe fatto una brutta fine. E lui che te fa? Se pensi che la mamma la poteva fare lui. Sì, la mamma del gatto, sì. Che tu ti credi che quando un gatto è piccolo fa come quando è grosso? Ma che quello, il gatto piccolo doveva allattare col contagocce, mica una volta, 7-8 volte tutti i giorni. Insomma, era una storia che si dimenticava di tutto, da altre cose, pensava solamente ai gatti. Poi, manco si era fatto grande quello piccolo, che me ne ha portato un altro. E io che dovevo fare? Ce lo siamo pigliati e basta. E che dovevamo fare? E io dicevo, e mo che vuoi fare? Mo sei diventato un gattaro. E che tu a me dovevi pensare, dovevi pensare mica ai gatti. Che se io ero un gatto, tu invece pensavi molto di più. Ma mo, hai da pensare ai gatti, e che dobbiamo fare? E lui, insomma, si metteva come un cane bastonato e diceva, fammi un sorriso. Sì, tu sei il gattaro mio. Insomma, noi siamo arrivati ad avere 8-10 gatti per casa, hai capito bene? E vabbè, ma lui così stava contento. E che dovevo fare? Insomma, ce li siamo pigliati. Poi gli è venuto in mente un'altra storia, che alla villa comunale stavano altri gatti e che a quelli non ci pensava nessuno. Allora io gli ho detto, senti Peppi, ma non è che noi ci vogliamo portare a casa tutti i gatti della città? E lui ha detto, no, ma quando mai? Questo non lo devi nemmeno pensare. Però fatto sta che mo i gattini piccoli, è vero, se erano fatti grandi, e lui se ne usciva la mattina per portare a mangiare ai gatti alla villa comunale. E non è che portava gli avanzi, no, no, no, no, la sera lui cucinava, sì, hai capito bene, cucinava apposta per i gatti, è tutta roba buona come la sarei mangiato pure io. Ma sai la gente com'è, insomma, è che qua la gente, già gli affari loro se li sanno fare poco, però lo vedevano uscire con le buste la mattina, e lo sapevano tutti quanti dove andava. Quando passava quello diceva, lo vedi là, là sta il gattaro. E io ero diventato quello che sta col gattaro. Insomma, lasciava le cose per i gatti vicino alla palazzina del comune, là dentro la villa comunale. Poi, una volta, gli hanno messo la multa, perché dice che sporcava tutto. Insomma, che poi venivano i topi. Insomma, 150 euro, hai capito? Ma che ti credi che quelli del comune l'hanno finito così? Ma manco per niente, che quelli tengono tanta gente, tanto personale che sta lì a fa niente, e siccome a lui lo chiamavano il gattaro, che ti hanno combinato quelli? Insomma, hanno mandato l'assistente sociale, una donna, e io gli ho detto, ma voi che venite a cercare qua? Che io manco pensavo che fosse per i gatti, insomma tu hai capito che cosa pensavo io. Che dovevo pensare? Insomma, e si è cominciato tutta una predica, e l'igiene, la casa sporca, i comportamenti spia, ma proprio così, ma quale? Che essere la spia? No, Peppino mio, che è sempre stato un bravo cristiano. Insomma, sai che ti ha fatto l'assistente sociale? Mi ha dato un libro, che che dice che l'aveva fatto il comune, ma mo, non so se è proprio un libro, insomma, è una cosa piccola, un libretto, era il manuale della ecogattara, sì, proprio così, il manuale della ecogattara. Ma hai visto che cosa fanno al comune? E poi dicono che al comune non si fa niente, e loro lavorano, stiamo capendo. Insomma, intanto gli ho detto, semmai me lo deve dare del gattaro e non della gattara, e si sta proprio innervosendo. Insomma, abbiamo dovuto pigliare questo libretto, ma quello era una cosa pazza, e dice che doveva pulire prima di mettere da mangiare, e che dopo doveva raccattare tutto quanto, e poi i piattini, insomma tutto quanto, e diceva che se i gatti lasciavano le escremente là vicino, era lui che le doveva togliere con la paletta, doveva mettere dentro una busta chiusa, però poi dice che ai rifiuti non le poteva buttare e manca il cassonetto. Insomma, che doveva fare? Se doveva portare a casa? Ma hanno fatto quella legge che se tiene il cane e quella la fa per terra, tu lo devi raccogliere. E va bene. Ma pure quello dei gatti? Com'è che prima, quando non ci andava Peppino, lì stavano tutte escrementi di tutte le parti e nessuno si preoccupava, e mo che ci andava lui, se ne è uscito pure l'assistenza sociale, che lei mica ci va a pulire, lei me ne solo a rompere la scatola a noi, capite? Poi manco sono passati 3-4 mesi che Peppino si è ammalato, è stato all'ospedale per 15 giorni. Madonna mia che sono stato quei 15 giorni! Io poi di gatto ne capivo niente. Lui stava all'ospedale, che non è che pensava a quello che teneva lui, no, manco per niente, quello pensava solo ai gatti, hai capito? E io che potevo fare? La mattina e la sera, due ore all'ospedale con lui, e tutto l'altro tempo passava a cucinare per i gatti, a tenere i gatti di casa, che poi quelli erano una decina, e poi dovevo andare alla villa, dovevo portare a mangiare ai gatti che stavano là, e dovevo pulire prima, e dovevo pulire dopo, e poi stava pure un vigile alla villa, e quello stava là solo perché deve sorvegliare a me per vedere se le cose le facevi come stava scritto sul libro dei gatti. E che poi fa? Stanno tanto lavoro a questo mondo, e quello a me deve controllare, sta sempre là, sempre là. Poi a Peppino è andata buono, diciamo, insomma, è uscita dall'ospedale, grazie a Dio, è andato tutto bene. E io mi sono sentito un altrettanto. Sì, qualche cosetta la facevo pure io, insomma, era lui il capo in testa, insomma, la decisione la prendeva sempre lui. Sai, quelle cose che tu devi capire se il gatto sta bene, se il gatto sta male, se lo devi portare al veterinario. Che noi quei 4 soldi di pensione che insomma, ce li spendevamo tutti quanti per dare da mangiare ai gatti e per portarlo al veterinario. Ah, ma tutta sta storia, tu dici, ma che c'è a zecca? Ma guardate intorno, ci stanno i gatti per casa? Niente, non ci sta niente, manco uno. L'ha portato tutto Peppino. Dove l'ha portata? E l'ha portata alla pensione. Come stanno le pensioni per i cristiani, come stanno pure le pensioni per i gatti? E lo sai com'è che si è fatto convincere? Pure quella è un'altra bella storia. Insomma, un giorno se ne viene un altro assistente sociale. Che è quella? Quando ha detto assistente sociale, io le ho proprio sbatto la porta in faccia e le ho detto, mamma, un'altra volta con la storia dei gatti? E se mi ha guardato e mi ha detto, che cosa? Quello con la storia dei gatti c'è proprio niente a che vedere. Mi ha detto che era la domanda che aveva fatto il signor Giuseppe al comune. E io ho fatto, ma quale domanda? E non capivo niente. Gli ho detto, scusate, ma quale domanda? L'ho ripetuto proprio. E io non ne so niente. E si è tirato fuori una carta, che era proprio come scrive Peppino, insomma. Alla fine mi ha detto che si doveva presentare alla pediatria dell'ospedale lunedì mattina, mi ha lasciato una carta, poi mi ha guardato e mi ha detto, ma avete capito bene? Mi ha dato proprio del voi. E io gli ho risposto che vecchio sono, eppure mezzo invalido, ma stupidi non sono. Insomma, così se n'è andata. Quando è venuto Peppino, con le cose dei gatti, perché lui sempre così va in giro, e ha visto quella carta, si è fatta proprio allegra, allegra, proprio una cosa bella. E allora la cosa me l'ha spiegata, ha detto che aveva fatto una domanda per fare il volontario all'ospedale. E gli ho detto, ma tu che sai fare? Tu non sei dottore, tu non sei infermiere, tu non sai fare proprio niente. Ma tu che vai a fare là? Tu là puoi dare solamente fastidio. Ma proprio così gli ho detto. Ma devi vedere come si è fatto scuro, proprio pareva che l'era crollato il mondo addosso. E io che dovevo fare, insomma, così proprio non lo potevo vedere, e allora gli ho detto un po' di cose belle, sai, quelle che si raccontano quando tu ti devi fare perdonare, insomma. E gli ho detto che era un bravo uomo, che, insomma, che poi Peppino è veramente un bravo uomo, che è sempre meglio per i cristiani che per i gatti, che, pure i gatti, insomma, sono povere bestie, però insomma, cristiano è proprio un'altra cosa. E poi gli ho detto, te lo pigli un caffè. Noi non abbiamo mai litigato, ma quando c'è stato qualche screzio, perché sa, in tanti anni qualche screzio c'è stato comunque, quando facevamo la pace ci pigliavamo una tazzina di caffè insieme, insomma, questo caffè ce lo siamo pigliato e lui di nuovo era tutto contento. Che quando il bambino sta di buon umore è una cosa proprio bella a vedere. Ma non sapeva più che cosa doveva combinare con i gatti. Quelli alla villa comunale stavano soli per pure prima, insomma, e sarebbero stati solo pure dopo. Lui però ha mandato una bella lettera, questo mi è piaciuto proprio tanto sta cosa, all'assistente sociale, l'ha spiegato tutto bello bello, che mo ai gatti non ci potevo pensare più e che mo ai gatti ci devo pensare essa, l'assistente sociale, la facesse essa l'ecogattara. Poi ha pensato ai gatti nostri. E io ho detto, ma uno teniamocelo, almeno uno. Ne abbiamo tenuto una decina per casa, pure esse sono povere bestie. E mi ha risposto che i gatti portano malattie e che non puoi lavorare all'ospedale a tenere i gatti a casa. E mi si è rivoltato il mondo. E questa mi sembrava proprio una di quelle cose assurde. Comunque, insomma, tanto ha fatto e tanto ha detto che una decina di gatti l'ha piazzata a tutti quanti. 3 o 4 agenti del palazzo, ha detto che così almeno li poteva rivedere, altri 4 o 5 di quelli piccoli, agli amici e 2 o 3 alla sorella, e quelli che ha dato alla sorella erano quelli che stavano peggio, quelli vecchi, quelli malati, cioè quelli che devono essere curati. Non ti dico la sorella, dice, ma tu a me me lo puoi appioppare, ma almeno dammi dei gatti gatti, che questo manco se reggono in piedi. Ma Peppino la sorella un altro po' che se la mangiava, che alle bestie bisogna volergli bene, che se uno le bestie le tratta così, quando poi arriva il tempo suo gli altri lo trattano allo stesso modo eppure peggio. Insomma, alla fine la sorella si piglia tutti i gatti vecchi. E mo Peppino già le è andato a rompere le scatole qualche volta, perché devo andare trovando, che lui doveva capire come stavano i gatti mo che glielo aveva dati. E insomma, poi ha fatto la visita medica, gli hanno trovato un po' con la pressione alta e il dottore ha detto che è stata una fortuna che gliel'hanno misurata, e mo prende pure certi pastiglietti, certe cose piccole piccole per la pressione. Comunque non è fatta abile, e quello c'aveva paura che non lo pigliavano per la storia della pressione, e gli hanno fatto pure il corso, e quella è una cosa interessante, che pure io me lo so guardare tutte quelle cose che l'hanno date, sai, tutte le cose dell'igiene, come è organizzato l'ospedale, come si ricevono i parenti, insomma, tutte queste cose qua. Ci stanno pure tante cose brutte sulle malattie dei bambini, e ce ne stavano certe, madonna mia, ma insomma, certe cose le deve pure sapere, e poi se lui deve lavorare là dentro, quelle cose lo deve sapere, può far bene. Comunque, passato il mese del corso, e quelle 4 settimane è durato, e stavo là 3 pomeriggi a settimana, e insomma, passato il corso, non ti dico quello che ha combinato il primo giorno che è andato là. Quello non aveva dormito per 3 giorni, sempre a pensare che doveva andare là, stava tutto imbambolato, che la mattina il caffè l'ho dovuto fare io, proprio non stava in piedi, e diceva, ma mo, che va a fare all'ospedale, che bevi, appena arrivi la telecomano pure a te. Ma lo vedi che non ti regge in piedi, ma lui pareva una molla, saltava da una parte e saltava dall'altra. L'ho accompagnato fino all'ospedale, ma non mi ha fatto entrare, e ci siamo salutati al cancello. Io sono andato a casa, gli ho preparato il pranzo, una cosetta sfiziosa. E lui, insomma, stava facendo pure una cosa importante. Almeno così la vedeva lui, ecco. Quando è arrivato a casa, non la finiva più di questo, di quello, che voi trovate quello che voleva fare, che con i bambini stava molto bene, che noi bambini non ne abbiamo, che se avessimo avuto bambini, mo saremmo fatti vecchi pure loro, che lui in mezzo ai bambini ci stava bene, lo chiamavano nonno e che era tutto contento, e che pure però, insomma, ha raccontato pure come stavano certi bambini, Madonna mia, ma come fa Peppina a stare là dentro? Che quelle sono proprio cose brutte, sono proprio cose che ti fanno il cuore piccolo piccolo, che tu dici, un vecchio, e vabbè, ma non bambini, Gesù, ma perché? Quelle mancano cominciate, insomma, mo lasciamo da parte le cose brutte, ma San Peppino era proprio contento. Poi gli è venuta l'idea, ma guardate, mi ha detto, ma domani perché non ci vieni pure tu? E io pensavo che voleva essere accompagnato, e ho detto, va bene, domani andiamo insieme. E lui mi ha fatto un sorriso che tu lo dovevi vedere, si è fatto rosso rosso e mi ha dato un bacio. Una cosa che tra noi è proprio una cosa rara. E io pensavo, mamma, che è tutta sta cosa? E poi ho capito, Peppino voleva che il volontario lo facevo pure io, ma io non avevo capito niente. E mo? E che potevo fare? E mica gli potevo dire, guarda, tu non hai capito niente, io pensavo solo che tu devi accompagnare, e non è che dovevo fare pure io quello che fai tu. Eh no, e come fai? E mica gli posso dire cose di questo genere, no? Peppino una cosa si aspettava, insomma, io che devo fare? Insomma, gli ho detto che l'indomani la domanda avrei fatto pure io, e lui era tutto contento. Però mo tu questa cosa a lui, insomma, non gliela devi dire, e no, se no mi metti proprio in difficoltà. Questo tu non lo devi scrivere, se no mi fai proprio arrabbiare. Ci siamo capiti, eh? Vabbè, insomma, stavo dicendo che poi ha fatto la domanda, però insomma a me non mi hanno pigliata. Però insomma, mo, se è buono o non è buono che non mi hanno pigliato non lo so proprio, però alla fine penso che là dentro ci sarei stato bene pure io. Insomma, è finito così. Vabbè, insomma, io l'avevo fatto per lui, però pure a me la cosa mi faceva piacere, insomma. L'idea non ce l'avevo, ma poi piano piano, insomma, mo Peppino va là 3 volte la mattina e 3 volte il pomeriggio, io sto a casa. Io vado alla villa comunale a pensare ai gatti, ma lui mi ha comprato una tuta di plastica, tutto pulito pulito, che quando torno la devo lavare subito, diciamo, l'igiene. Però ai gatti mo ci penso io. Tu sai, insomma, quando torno a casa mi dice, tu sei il bel gattaro mio. E papà, insomma, che dobbiamo fare? Però mo sta proprio contenta. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.